Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa ennesima puntata sul Pioniere, questa rivista fumetti della sinistra del dopoguerra, che ingaggiò un terribile braccio di ferro con il mondo clerico fascista. In gioco la posta era altissima, cioè la educazione o la rieducazione dopo il fascismo e la guerra di un'intera gioventù. Si giocavano l'egemonia degli oratori in quel circolo dei pionieri che erano stati promossi proprio dal Partito Comunista Italiano. Questo durissimo braccio di ferro ebbe anche dei aspetti davvero medievali. Precedentemente un frate in Germania negli anni 20 aveva apostrofato chi leggeva il Falco Rosso, che era l'equivalente fumetto anteguerra dei socialisti tedeschi, li aveva apostrofati come senza Dio e aveva profetizzato loro che leggere il Falco Rosso portava alla sifilide. Toni che oggi possono fare anche sorridere, ma che allora squarciavano davvero le coscienze e l'opinione pubblica. Questo braccio di ferro dunque si riaccese fortissimamente nel dopoguerra in Italia, come ci racconta lo storico Marco Fincardi dell'Università di Venezia. Nel dicembre e gennaio del 43 si lancia l'idea di una strage degli innocenti. Nella Sicilia, raccontano tutti i giornali di Salò, occupata dagli angloamericani, gli angloamericani con l'aiuto del re e con l'appoggio di Badoglio avevano fatto rapire tutti i bambini siciliani e li avevano consegnati a chi? Gli angloamericani, ma ai sovietici che li avrebbero portati con delle navi in Unione Sovietica, dove li avrebbero usati come schiavi e naturalmente ovviamente anche divorati. Quindi si cercava di agire tutto su questi aspetti razionali. Poi a un certo punto c'è anche il racconto in gennaio, siccome non si trovavano più particolari nuovi da aggiungere, aggiungono anche il particolare di una di queste navi sovietiche che era affondata nel Mediterraneo, quindi un migliaio di bambini erano morti in questa. Non c'era ovviamente una parola di vero. Si diffonde anche la notizia che per premiare Stalin, che si era preso tutti questi bambini siciliani, il re abbia insignito Stalin della collana dell'Annunziata, del cordone dell'Annunziata, che era la massima onorificenza sabauda. Finisce la guerra e a riprendere storie di questo tipo diventano i comitati civici della Chiesa Cattolica, soprattutto nella propaganda che si fa nelle elezioni del 48. Già dall'inverno del 45 nel nord Italia era cominciata, grazie a Teresa Noce, una campagna che era la campagna per portare di quelli che venivano chiamati i treni della felicità. Pensate a Milano, a Torino completamente rase al suolo, pensate a città come Napoli che erano in condizioni analoghe, dove non solo c'era la fame ma c'era il freddo, nessuno aveva più di che riscaldarsi, non c'era più nulla. Ecco, Teresa Noce lancia questa campagna, soprattutto nelle campagne emiliane e romagnole, ma in generale nelle campagne dove bene o male qualcosa da mangiare si trovava. L'organizzazione del Partito Comunista porta questi bambini presso le famiglie contadine, che li tirano su nel periodo finché le loro famiglie non saranno in grado di riavere una stabilità economica. La propaganda clericale appunto lancia tutta una serie di anatemi su questi treni della felicità. Si racconta che naturalmente i bambini verranno scristianizzati nelle famiglie dove andranno, ma tante volte anche che rischiano molto di più, rischiano la vita. Poi tanto più andando in un'Emilia dove c'è tutta una leggenda nera che si viene a creare attorno a Correggio, dove la Cianciulli, la famosa saponificatrice, aveva ucciso e bollito delle persone. Ecco, c'è tutta un'immagine, ci sono dei bambini che ricevono dal clero delle notizie terrorizzanti che li portano a vivere con una specie di incubo. Ci sono dei bambini che, arrivati nelle famiglie che li ospitano, non hanno il coraggio di mangiare, non hanno il coraggio di addormentarsi perché temono che di essere fatti a pezzi, di subire una sorte atroce proprio. C'è questo tipo di propaganda. Ecco, quindi l'immagine, la frase fatta che tante volte noi usiamo oggi ironicamente per dire sì, sono i tempi dei comunisti che mangiano i bambini, in realtà era una propaganda che aveva una propria materialità, che oggi noi possiamo usare ironicamente, ma che all'epoca nulla di ironico aveva. Ecco, per chiudere vi volevo leggere un paio di brani proprio da questi due libretti. Uno è di Don Lorenzo Bedeschi, si intitola Dissacrano l'infanzia, i pionieri d'Italia. Un altro è invece di un bolognese, padre Tommaso Toschi, un noto clerico fascista che era il comandante, la guida dei frati volanti del cardinale Lercaro, che cominciano a raccogliere tutta una serie di aneddoti, voci che circolano con delle forzature, spesso raccontando delle menzogne pure, su quello che farebbero i pionieri all'infanzia, che sono racconti sostanzialmente di un'infanzia traviata, che viene educata a fare le cose più terribili. Si racconta di bambini che vengono educati ad andare magari anche alla dottrina, ma poi nel momento in cui vengono portati davanti al tabernacolo a sputare sul tabernacolo. Oppure si parla di gare di bestemmie, dove dice la nostra educatrice dell'Udi ci dà un bacio ogni volta che bestemmiamo. Oppure ci sono le gare di bestemmie, ci sono, si dice. Ma le cose più dove si cerca di insistere di più sono quelle sulle festicciole che fanno i pionieri, dove si dice si fanno sostanzialmente delle orge pedofile, dove si balla, si fanno ballare, si dice, dai bambini di 4 anni fino ad adulti di 36 anni, dove a volte si balla addirittura al buio. Non si arriva ancora in questi libretti emiliani a lanciare l'accusa che invece porterà in carcere diversi militanti del paese padovano di Pozzonovo, un paese bracciantile, dove nel 1955, sostanzialmente quelli che sono gli organizzatori adulti dei pionieri vengono tutti incarcerati e una decina di bambini vengono sottoposti a continue interrogatori per confessare appunto di essere stati coinvolti in orge pedofile, dove appunto si ballava e dove si ballava soprattutto eccitati da sostanze eccitanti che erano la spuma e la gassosa. Ma anche sui giornali, tanto quelli di Bologna come quelli di Reggio Emilia, si parla spesso di bambine portate in piazza nude. Poi dopo nella spiegazione si precisava che erano nude nel senso che avevano le braccia e le gambe nude perché avevano la maglietta e le braghe corte perché erano manifestazioni sfilate sportive o dove facevano giochi sportivi, ma nella cultura cattolica dell'epoca appunto le braccia nude e le gambe sopra il ginocchio nude non si dovevano vedere e quindi quelle bambine, si dice sulla stampa, con intento chiaramente malevolo di forzare la realtà, erano tout court nude. Ecco, quindi sono forme di rifiuto sostanzialmente di quella che viene vista come una società con una cultura alternativa, perché la cultura cattolica degli anni 40 fino a metà degli anni 50 sostanzialmente cosa fa? Cerca di ereditare il monopolio educativo della gioventù che era stato proprio del fascismo. Quindi chiunque sia portatore di una realtà alternativa viene visto come un pericolo terribile, per cui verrà fatta una scomunica apposita non solo per i comunisti ma anche per chi scrive i propri figli all'API e viene fatta una scomunica anche per gli stessi bambini. Sostanzialmente la politica del Partito Comunista verso questo tipo di aggressione che demonizza continuamente, molto più dei comunisti sono proprio i pionieri a essere indicati come le nuove streghe dai clericali, c'è questa reazione che alla fine degli anni 50 porta a sciogliere l'Associazione Pionieri d'Italia. Lo stesso fa il Partito Socialista, che nel frattempo, con l'Associazione dei Falchi Rossi, perché nel frattempo si sta avvicinando, sta cercando di contrattare la formazione dei primi governi di centrosinistra. E lo scioglimento di queste associazioni, anche se il giornalino Il Pioniere continuerà ancora per oltre un decennio, lo scioglimento di queste associazioni porta in Italia ad avere un buco che invece nei paesi del nord Europa non c'è, e cioè a non avere alle forme associative della sinistra delle organizzazioni che in qualche modo educhino alla creatività, all'auto-organizzazione, i bambini e i ragazzi. E all'appuntamento del 68 la sinistra italiana ci arriva senza avere questo tipo di forme educative che invece nei paesi del nord Europa si erano, la sinistra sia socialdemocratica che comunista, aveva mantenuto. Marco Fincardi ha già fatto riferimento al processo di Pozzonovo, quello che Alessandro Nicastro, in un suo libro edito da CR Edizioni del Centro Studi Ettore Lucini, definisce «Angeli o demoni i nostri bimbi?», sottotitolo «Storia di una montatura anticomunista, il processo ai pionieri di Pozzonovo». In realtà si tratta di un attacco feroce, dal sapore molto oscurantista e medievalista, con accuse anche immaginifiche e molto pruriginose, coordinate dall'allora vescovo di Padova Girolamo Bortignon e amplificate dal giornale La Difesa del Popolo, il settimanale cattolico della diocesi di Padova. Infatti lo stesso libro di Nicastro prende il titolo da un titolo a caratteri cubitali di questo foglio di carta stampata. Il titolo è «Angelo e demoni, i nostri bimbi». Si parte con una serie di dichiarazioni, scoop giornalistici, che vengono riassunti più o meno in questo modo. Tra la fine del mese di giugno e i primi giorni di luglio del 1953, Battistina Gurian, madre superiora dell'asilo di Pozzonovo, ascoltò Gabriella Ferro cantare una canzone oscena. La bambina aveva 3 anni e mezzo. Nella canzone si parlava dell'Associazione Pionieri d'Italia. Turbata da quanto aveva sentito, la suora decise di informarsi sull'API e l'8 luglio rivolse alcune domande a Orazio Rossati, un bambino di 7 anni. Il fanciullo raccontò che la sede dell'associazione era la sezione del Partito Comunista Italiano di Pozzonovo e che là si riunivano da 30 a 40 bambine e bambini. Durante gli incontri alcuni adulti insegnavano ai bimbi a bestemmiare contro Dio e la Madonna e a insultare la religione cattolica, il Papa e i sacerdoti. Gli adulti spiegavano che se i comunisti avessero conquistato il potere, avrebbero diviso tra loro i beni del Vaticano dopo aver bruciato il Papa in un bosco. Gli adulti facevano anche spogliare i bambini più grandi e, dopo aver spento la luce, insegnavano a fare cose brutte. I bambini più piccoli venivano addestrati al pugilato e i più bravi nelle bestemmie. Questi erano premiati con biscotti e denaro. Dichiarazione di Pietro e Provo Bertazzo. Pozzonovo, 22 luglio 1953. Io, Bertazzo Pietro di Provo, sono andato con i pionieri di Pozzonovo alle volte alla sede del partito e delle volte alla sala. Mi insegnavano che i preti dicevano cose false, che il Signore non esiste, che si può bestemmiare come de cane, m putana. Poi si ballava con le bambine e mi insegnavano a fare cose brutte con le bambine. Io le ho fatte qualche volta. Mi dispiace aver fatto così, non ci vado più. Ho scritto di mia volontà davanti a mio papà. Non c'è davvero da stupirsi allora se con tali premesse di denunce dalle parrocchie, di campagne giornalistiche dai giornali di orientamento cattolico si aprisse un processo seguitissimo, e un processo che non deluse l'attesa perché fu una serie di colpi di scena, e a poco tutte queste accuse così pesanti e anche per certi versi così ingenue, ma riflette lo specchio di un tempo, beh, tutte queste accuse vennero smontate e si arrivò a un verdetto di assoluzione. Il 14 ottobre Il Lavoratore, il settimanale della Federazione Provinciale del PC, pubblicò un lungo articolo intitolato «Clamorosa smentita alle fandonie sui pionieri. Le accuse della pastorale del Vescovo sono menzogne ridicole», che conteneva la riproduzione fotografica delle ritrattazioni delle dichiarazioni fatte in canonica di Provo Bertazzo, padre di Pietro e primo, di Pietro Bertazzo e di Pietro Dal Buono. Essi scrissero che quanto raccontato ai religiosi di Pozzonovo non era vero. I testi sono tutti datati 27 luglio 1953. Provo Bertazzo scrisse: «Io sottoscritto Bertazzo Provo, fu Pietro, dichiaro nel modo più assoluto che la dichiarazione da me e dai miei figli sottoscritta al reverendo parroco di Pozzonovo, Don Cesare Morosinotto, circa l'insegnamento di bestemmiare e di ballare illecitamente da parte dei locali dirigenti della sezione del PC agli organizzati dell'Associazione Pionieri d'Italia non risultava essere verità, in quanto, pur frequentando la locale sezione del PC, mai ho sentito i dirigenti della stessa insegnare cattive cose a detti giovani in fede». Il figlio Pietro firmò la seguente dichiarazione: «Io sottoscritto Bertazzo Pietro di Provo dichiaro non essere verità quanto firmato in canonica di Pozzonovo circa l'insegnamento di bestemmiare e di balare a luci spente da parte dei locali dirigenti del Partito Comunista Italiano. Dichiaro di avere firmato la dichiarazione in canonica perché il parroco mi disse che mi avrebbe mandato a prendere da Padova o da Monselice e mi avrebbe battuto». Infine Pietro Dal Buono scrisse: «Io sottoscritto Dal Buono Pietro dichiaro che non è vero quello che ho scritto da Don Cesare riguardo i dirigenti comunisti. Quello che ho scritto l'ho scritto perché mi ha costretto Don Ottavio. I comunisti non insegnano né a bestemmiare e fare cose brutte». Antonio Ferro, padre di Gabriella e Silvana, raccontò che le dichiarazioni gli furono dettate in canonica da suor Battistina Guriano. Chiamato in canonica con le figliole, loro si recarono in una stanza con la suora e il cappellano, mentre il parroco gli offriva un bicchiere di vino. Quando fui portato alla loro presenza, le bambine erano a testa china e la suora cominciò a dettarmi delle frasi che io scrivevo dopo che loro le confermavano. Le bambine facevano solo il cenno di sì con la testa, era la suora che diceva tutto. Pasqua Bergantin, madre delle sorelle Ferro, confermò il racconto del marito e affermò che le figlie le dissero che non era vero quanto avevano dichiarato a suor Urian in canonica e che lo avevano fatto solo per la promessa di ricevere degli stracci. La donna ammise che le due figlie chiedevano l'elemosina in giro. Gabriella e Silvana Ferro confermarono le dichiarazioni dei genitori e dissero di non aver mai partecipato ad incontri nella sezione del PC. Vittoria Bernardi, madre di Silvana Tamiazzo, fu protagonista di un clamoroso colpo di scena. In istruttoria la donna aveva dichiarato che la figlia aveva firmato spontaneamente la dichiarazione in canonica. In udienza invece affermò di non aver mai firmato con una croce la dichiarazione della figlia e che la bambina in canonica aveva scritto sotto la dettatura di suor Gurian. Il pubblico ministero, nella confusione e stupore generali, chiese ed ottenne l'arresto della Bernardi per falsa testimonianza. Dopo poche ore la donna dichiarò di aver detto la verità al giudice istruttore e confermò di non avere mai firmato con una croce la dichiarazione della figlia e venne subito rilasciata. Alla fine tutti gli imputati accusati di questi orribili crimini sui minori furono assolti, ma quanto dolore, quanto fango, quanta sofferenza tutto questo creò. Fu una battaglia durissima, anche perché man mano che il castello dell'accusa cadeva, il vescovo reagiva, leggo sempre dal libro di Naccarato, Angelo Demoni, i nostri bimbi, con un lungo articolo sulla difesa del popolo del 18 ottobre che si intitolava «Principi e fatti promuovono la perfida lotta antireligiosa, schiaccianti, irrefutabili testimonianze». Il testo riportava numerose citazioni di libri e discorsi di Stalin, Lenin, Togliatti e Longo per dimostrare i principi antireligiosi del comunismo e poi elencava una serie di episodi nei quali bambini iscritti o simpatizzanti dell'APE avevano offeso e minacciato preti ed altri ragazzi religiosi, avevano bestemmiato, urlato parolacce e lanciato sassi a persone che andavano in chiesa o in patronato. Di qui si giustifica anche la nostra colonna sonora scelta da quella del film L'Esorcista. Davvero un secolo buio, vorrebbe da dire, che ricorda altri processi, come segnala sempre questo libro di Naccarato, erano sulla falsa riga della Santa Inquisizione. Alla fine, naturalmente, rivendicando la propria innocenza e la giustezza delle proprie opinioni, il Partito Comunista chiamò tutti alla piazza. Il comitato provinciale della Federazione del PC di Padova si riunì subito dopo la sentenza e approvò un breve documento che fu poi distribuito in tutti i comuni della provincia. Nel testo si salutavano in modo fraterno e caloroso le compagne e i compagni di Pozzonovo assolti e si esprimeva soddisfazione per la serena sentenza della magistratura che segnava la fine della campagna anticomunista promossa dai clericali più faziosi. Il documento invitava tutti i lavoratori a costruire e rafforzare i circoli dell'Associazione Pionieri d'Italia. Invitava i militanti del PC a onorare la memoria di Casimiro Baretta, la cui nobile figura si è tentato inutilmente di infangare, e si rivolgeva ai lavoratori cattolici per ricordare che faziosità e fanatismo sono un pericolo per lo sviluppo civile e ordinato della società. Il testo si chiudeva con un appello all'unità dei lavoratori nel rispetto di ogni sincera ideologia per combattere contro i mali che minacciano tutti gli italiani, il pericolo di guerra atomica, i rifugi di fascismo, la disoccupazione e la miseria. La sera di martedì 1 febbraio, nella sala della Gran Guardia a Padova, si svolse una manifestazione pubblica organizzata dal PC per spiegare alla cittadinanza l'esito del processo e per denunciare la montatura politica e anticomunista che aveva ispirato alla vicenda. Alla manifestazione intitolata «Dove porta l'anticomunismo?» parteciparono così tante persone che la gente era stipata fuori dalla sala fino allo sottostante Piazza dei Signori. Landolfo, cronista del 1100. Ci ha tramandato uno dei fatti più importanti della storia del Comune di Milano. La cronaca del giudizio di Dio, protagonista, prete Liprando. Prete Liprando, ben visto dai poveri cristi, andò dall'arcivescovo grosolano in Sant'Ambrogio. Sei ladro e simoniaco, gli disse, venduto all'imperatore. Quel porco? Cos'è? Rispose l'arcivescovo infuriato. Come ti permetti, prete? Sono ex combattente. Ho fatto la prima crociata e anche la terza. La seconda no, perché ero malato. Prete Liprando rispose. Lo so, più di una città insanguinata. Lo so, più di una città tua insanguinata. Ed ora a Milano tu vuoi inchiodata vederla prostrata. Liprando a sto punto esigo il giudizio di Dio. Moventi le fascine di legno, 40, 40, ci tenere pago io, se tu non uscirai per niente arrostito, io me ne andrò solo umiliato, forse la città solo appiedato. Legato l'impianto, lo pari alla casa del sole, affronterà il giudizio divino in piazza Sant'Apollo. 40 fascine furono approntate in una catasta. La gente veniva fin da Venegono e da Piandrate. Indietro solo spingete, guardiana, che fuoco non lo vedete. Ma io non vedo niente, non vedo una cilette. Sono venuto da Como per niente. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto.